Nell'ultima settimana io, come penso tanti dei miei colleghi o tanti sindacalisti, sono stata subissata dalle richieste più astruse, mi verrebbe da dire, da parte dei lavoratori. Quindi questa mattina ho pensato che poteva essere utile scrivere qualcosa da far circolare con alcuni consigli per lavoratori e lavoratrici, di modo che fossero tutti un pochino più pronti di fronte alle varie richieste che i datori di lavoro in questi giorni stanno facendo a un po' tutti quanti. In particolare ci sono 6 punti che ovviamente rispondono alle domande che ti sei sentita fare, come ad esempio la questione delle dimissioni. Questa delle dimissioni è una domanda che mi ha anche stupito, è stata piuttosto frequente. Cosa succede? Che tanti datori di lavoro chiedono in questo momento ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori a termine, di dimettersi anticipatamente. Vuol dire che di fatto un lavoratore che si dimette perde ogni tipo di tutela, perché chiaramente con le dimissioni, questo è importante sottolinearlo, non si ha accesso a nessun trattamento di disoccupazione. Perché succede questo? Perché i lavoratori a termine non possono essere licenziati per giustificato motivo oggettivo, al contrario di quelli a tempo indeterminato. E quindi i datori di lavoro in questo momento cercano di farli dimettere per risparmiare su alcune mensilità di retribuzione. Questo però è legittimo ed è soprattutto dannoso per i lavoratori che dimettendosi non possono accedere alla disoccupazione. Quindi attenzione, mi raccomando, perché probabilmente non si sa, non dimettetevi mai, piuttosto aspettate di essere licenziati in questo momento, almeno c'è un qualche tipo di reddito che può essere recuperato, altrimenti con le dimissioni di fatto si è a piedi dal momento dopo in cui si sono presentate. E poi c'è la questione che sta facendo tanto discutere dei permessi o delle ferie. Diciamo che in questi giorni, almeno dalle telefonate che io ho ricevuto, ho ascoltato una grande fantasia di tutti i generi. Si passa dalla richiesta di prendere le aspettative non retribuite a quelle delle ferie. Ora, facendo un po' di ordine, un lavoratore non è costretto a prendere un'aspettativa non retribuita. Il datore di lavoro non può costringerlo a prendere un'aspettativa non retribuita. Quello che il datore di lavoro può fare è di accedere agli ammortizzatori sociali, soprattutto la cassa integrazione in deroga, il cui decreto dovrebbe uscire domani, quindi domani probabilmente sapremo un po' meglio i contenuti pratici di questo ammortizzatore, però non può lasciare il lavoratore senza reddito, senza possibilità di avere la disoccupazione, senza possibilità anche di cercare un nuovo lavoro, di fatto legato, senza però avere una retribuzione. Sulle ferie il discorso è un pochino più complicato, anche sulla base di quello che è stato detto ieri poi dal Presidente del Consiglio Conte, perché un'azienda può imporre le ferie forzate, in alcuni casi eccezionali può farlo, quindi diciamo questo periodo potrebbe rientrare. Quello che secondo me però va sottolineato è che le ferie sono un istituto previsto dalla Costituzione per tutelare il riposo dei lavoratori, per garantire il riposo dei lavoratori e non le esigenze dell'impresa. Quello che io penso è che se qualche giorno, chiaramente questa è una cosa che l'azienda può fare, quello che secondo me non può fare, ma naturalmente questo va preso un po' con le pinze perché si vedrà successivamente, soprattutto quest'estate, quello che succederà è di far consumare tutte le ferie, lasciando di fatto i lavoratori per tutta la durata di quest'anno senza possibilità di avere un periodo di riposo e di ripresa delle energie psicofisiche. Chiaramente questo sarà secondo me il vero punto di scontro per i prossimi mesi, questo delle ferie, perché chiaramente oggi penso che saranno fatte consumare a molti lavoratori e questo sarà problematico nei prossimi mesi, quando speriamo tutti di essere usciti al meglio da questa situazione e in cui però non avremo più possibilità di avere nessun ristoro psicofisico dal lavoro. E questo chiaramente è una questione controversa perché è vietata dalla Costituzione stessa addirittura. C'è anche la questione della malattia e dello smart working, e due cose che non possono stare insieme. Assolutamente. Un'altra cosa che mi ha molto stupito dalle telefonate ricevute in questi giorni è di tante persone messe in quarantena perché hanno avuto dei contatti, insomma, con persone positive al coronavirus, che chiaramente, quarantena che chiaramente può essere coperta dalla malattia, in quanto sicuramente non è un'assenza volontaria ed è un'assenza dovuta a motivazioni di salute, a cui la stessa azienda ha chiesto di lavorare in smart working durante la malattia. Ora, questo è un concetto che secondo me, anche con le innovazioni tecnologiche, deve essere chiaro. La malattia è incompatibile con qualsiasi qualsiasi tipo di lavoro, non solo con il lavoro fisico in presenza. Se io ho la malattia, che peraltro mi è pagata dall'INPS e non dal datore di lavoro, non devo lavorare neanche a casa, e questo deve essere chiaro e deve essere sottolineato in tutti i luoghi. Chiaramente nessun datore di lavoro può imporre lo smart working a chi comunque ha un'assenza per malattia, come chi è costretto alla quarantena per motivi di salute pubblica. Ultima questione, forse un po' è stata chiarita dalla conferenza stampa di ieri sera del Premier Conte, riguarda ad esempio le fabbriche e le disposizioni di sicurezza. Conte ha detto che le fabbriche possono andare avanti solo se verranno rispettate rigidamente le prescrizioni. Sì, questo è un punto che poi è valido in generale anche in condizioni normali, ovvero un datore di lavoro è obbligato a garantire condizioni di sicurezza per i propri lavoratori, sia con il rispetto delle prescrizioni generali, sia con la fornitura dei cosiddetti dispositivi individuali di sicurezza. E questo è valido sempre. Diciamo, questo è il punto che in questa fase a me personalmente preoccupa di più, cioè la situazione di tutti coloro che sono costretti ad andare a lavorare, come per esempio gli operai o altre categorie quali i lavoratori del commercio e dei supermercati, a cui non vengono forniti i dispositivi individuali di sicurezza, come per esempio le mascherine o il gel disinfettante. In questa situazione è importante sapere che si può rifiutare legittimamente la prestazione lavorativa, perché il datore di lavoro non garantisce le condizioni minime per poter lavorare rispettando il diritto alla salute, che è più importante anche di quello al lavoro. Chiaramente, per evitare ritorsioni individuali, che purtroppo anche in questa fase sono sempre possibili, l'ideale sarebbe un'astensione collettiva, ovvero uno sciopero. Chiaramente lo sciopero deve essere convocato dai sindacati, questa è una valutazione che i sindacati sui singoli posti di lavoro dovranno fare. Però io credo che sia utile che i lavoratori sappiano che in caso di assenza di dispositivi individuali di sicurezza, che devono essere obbligatoriamente forniti dal datore di lavoro, è legittimo anche il rifiuto della prestazione lavorativa.